azione, radio azione, controinformazione, letture, promozioni, musica, radio azione, frequenze, azione, radio diretta, radio azione, radio azione, radio azione, radio azione, radio azione, controinformazione, letture, promozioni, musica, radio azione, frequenze, azione, radio diretta, radio azione, radio azione. I refrattarios non hanno così tanto tempo da perdere a guardare lo spettacolo pirotecnico in tutto il golfo che da quell'altezza si lascia ammirare in tutto il suo splendore. Il panorama, specialmente quello notturno, con i fari, qualche piccola barchetta di pescatori, le isole al largo della penisola che quasi va a toccare una di esse, sembra quello di sempre, inviolato. Agli zombie non interessa se quel mare sia inquinato o meno, al limite potrebbe essere un problema estivo quando quel mare diventa un'ansiosa vasca di sfogo per il periodo breve di ferie da godere facendo quanto più cose possibile, dopo un anno di schiavitù consensuale. Non interessa cosa vi è dentro quel panorama, ma solo la visione globale. Niente di più come si guarda una cartolina in cui si vede bellissimo mare della Polinesia con spiagge bianche, palme e mare azzurrissimo, con tanti saluti da Mururoa, dove vedi boschi bellissimi e innervati dell'Ucraina e poi scopri spostando di un metro l'obiettivo che appare la centrale nucleare di Chernobyl. Le metropoli negli ultimi 30 anni hanno subito una metamorfosi dovuta ad una valanga di cemento che ha coperto definitivamente ogni piccolo spazio verde. Le case basse della Nazaro 13, di massimo 4 piani, sembrano essere diventate la superficie su cui poggiano grattacieli dalle forme più svariate e futuristiche, con ascensori panoramici. Colpevoli del deturpamento, sempre i soliti ignoti. Tutti li conoscono, ma tutti fingono di non conoscerli, per una buona convivenza e sottomissione. Nazaro 13 è una metropoli, ma allo stesso momento è rimasto un paesotto. Come in ogni piccolo paesino, ognuno conosce vita, morte e miracoli di ogni abitante. Quindi si conosce chi è il politico, dove abita, cosa fa normalmente, i soldi che ha guadagnato sulla salute degli altri e quanti morti, non animali, sono presenti in ogni piatto che mette a tavola ogni giorno. Si conosce il mafioso, le sue abitudini, le sue preferenze, dove abita, i soldi guadagnati sulla salute degli altri e quanti morti, non animali, sono presenti in ogni piatto che mette a tavola ogni giorno. I due elementi in questione non sono uguali, sono la stessa persona. Istituzione e mafia non sono due cose diverse, come volgarmente vengono indicate dai media traspoc stato legale e stato illegale. Le istituzioni sono lo spazio in cui le mafie sono legalizzate, e non solo a Nazaro 13, ma in tutto il mondo. I media traspoc non sono altro che la loro voce, che ogni tanto finge di criticarli su alcune cose di basso interesse per poi mettere a tacere quelle che sono più nocive. Nel frattempo i refrattarios hanno trovato un luogo sicuro tra la vegetazione vesuviana, da cui si può tenere sotto controllo tutta la zona nell'area di un paio di chilometri. Proprio là dove hanno fermato il camper e le auto c'è una struttura abbandonata e quasi diroccata. È un vecchio ristorante che negli anni passati era stato bruciato dalla camorra per non aver pagato il pizzo. Percorrendo i primi metri all'interno della struttura, i refrattarios notano un mare di siringhe sparse a terra e ciò non li lascia tranquilli perché significa che quel posto è meta di tossicodipendenti e si sa benissimo quando possono essere deboli certi zombie davanti alla sostanza dello stesso colore della merda, cioè il marrone. Come spiega bene un vecchio detto, per gente come questa ci vuole uno schiaffo per farli parlare e mille per farli stare zitti. Condividere la zona con i tossicodipendenti sarebbe rischioso per i refrattarios, ma la struttura è invitante, quindi tocca espropriarla in qualsiasi modo senza dare nell'occhio. I refrattarios preparano intanto la postazione dividendosi i compiti, ognuno mette il suo sapere a disposizione degli altri e nel giro di un paio d'ore, nonostante il buio pesto sotto la coperta di alberi vulcanici, sono già a tavola per mettere qualcosa nello stomaco e trovare un'idea su come evitare che i tossici possano arrivare già di primo mattino nel loro santuario. All'alba dell'1 gennaio 2014, quindi poche ore dopo, due tossici sono fermi ad un chilometro dalla struttura. Sono là appoggiati su un muretto di protezione del precipizio in una curva della strada. Sembrano essere preoccupati da qualcosa e ragionano a voce alta come di solito fanno i tossici di eroina, sbattendosene se c'è qualcuno che li ascolta. Man mano si vedono altri zombie arrivare per poi tornare indietro, quasi scappando con una corsa un po' goffa. Dopo aver incrociato i due che sono fermi e preoccupati alla curva, tutti tornano indietro, tranne i due. Mark e Aki, con i loro visi poco raccomandabili, hanno finto di essere tossicodipendenti, frequentanti di quel luogo. A chi arrivava dicevano che fortunatamente prima di arrivare alla struttura avevano notato un movimento strano di auto o di Tarspok nelle vicinanze. Loro si sarebbero nascosti nella boscaglia e così sarebbero riusciti ad arrivare nelle vicinanze della struttura senza farsi notare. Da dietro un rovo molto fitto avrebbero visto la struttura circondata da auto di Tarspok e gli stessi uomini topo che portavano via con dei cappucci neri in testa mentre venivano bastonate alcuni tossicodipendenti. La sorella aveva funzionato e i tossici man mano che scendevano dal vulcano mettevano a corrente chi si stava indirizzando alla struttura. A meno per quel giorno, nessun tossico si azzardò ad avvicinarsi.

sud-est de nord, 25 degrés, 19 minutes, 0 secondes. Est 82 degrés, 59 minutes, 0 secondes. La nuit suivante, passage à nord, 26 degrés, 42 minutes, 0 secondes. Est 88 degrés, 26 minutes, 0 secondes. Près de nord, 24 degrés, 11 minutes, 14 secondes. Est 88 degrés, 16 minutes, 45 secondes. Poursuite de voyage à nord, 23 degrés, 15 minutes, 0 secondes. Est 87 degrés, 45 minutes, 0 secondes. Nord 22 degrés 52 minutes 9 secondes, est 88 degrés 22 minutes 38 secondes, et de nord 24 degrés 53 minutes 0 secondes, est 88 degrés 9 minutes 0 secondes, le 26 octobre à 7h du matin arrivé à nord 22 degrés 32 minutes 0 secondes, est 88 degrés 25 minutes 0 secondes, le 27 octobre l'indication sur les bras de nord 22 degrés 34 minutes 11 secondes, est 88 degrés 22 minutes 11 secondes, passage au large de nord 12 degrés 30 minutes 0 secondes, est 88 degrés 45 minutes 0 secondes. Montagne nord, 13 degrés 9 minutes 0 secondes, est 33 degrés 1 minute 0 secondes. Avant d'atteindre le point nord, 20 degrés 24 minutes 0 secondes, est 72 degrés 18 minutes 0 secondes. Lunedì 17 febbraio 2014, lunedì anomalo, lunedì con sole, chissà cosa capiterà. Ritorniamo ai Caraibi, Caraibi del XVII secolo, ci siamo lasciati lunedì scorso con i pirati, i fratelli della Filibusta, che al ritorno da Curaçao, dove avevano avuto una serie di accidenti con le istituzioni locali, stavano tornando verso Tortuga, stavano navigando e incontrano una nave francese, una nave regolare francese che inaspettatamente ha un atteggiamento abbastanza ostico verso i fratelli della costa e lì hanno una discussione e adesso sentiamo che cosa accade durante il ritorno sotto scorta. Erano davvero francesi, ma scoprirlo non fu un gran vantaggio. Soldati impettiti e ufficiali arroganti accolsero la delegazione del Neptune che, guidata da Laurence de Graaf, andò a rendere omaggio su una scialuppa al capitano del Gloire d'Ully, la fregata più grande. Per l'occasione, Lorenzillo aveva indossato la sua tenuta migliore. Foulard rosso, giacca con alamari d'oro, camicia a sbuffi e trine, pantaloni neri filettati d'argento. Di armi addosso aveva solo una sciabola che gli pendeva da un cinturone di cuoio istoriato. Sull'elsa era incisa una scena di battaglia tra vascelli, una lama ben diversa da quella corta e semplice che maneggiava negli arrembaggi. Se credeva di fare impressione si sbagliava. Inzuppato dagli spruzzi mise piede a bordo e davanti si trovò un gentiluomo giovanissimo ed elegantissimo che, sulla parrucca dei boccoli smisurati, aveva calcato un cappello tutto piumaggi multicolori. Era rivestito da una palandrana ricamata che gli scendeva fin sotto le ginocchia. Aveva solo uno spadino decorativo e si faceva aria con un ventaglio, sebbene la brezza soffiasse a sufficienza. Lorenzillo, imitato dai suoi, Calloal, Le Bon, Rogerio, De Lusson, salutò con un corto inchino poco più che impercettibile. Parlò nel suo francese approssimativo. «I miei omaggi, capitano, forse sapete chi sono, sono Laurent de Graaf, al servizio della vostra causa. Stavamo per spararci tra commilitoni, per fortuna questa tragedia fratricida è stata evitata». Probabilmente Lorenzillo si aspettava le usuali parole cortesi di risposta, invece l'altro rimase impettito e non accennò minimamente a togliersi il cappello. «Bene, signor de Graaf, io sono Hubert de Lanversier, conte di Frontignan, incaricato da sua maestà il re di scortare il signor de Cussy perché assuma il governo dell'isola di Tortuga e dei possedimenti di Hispaniola». Il tono era freddo, se non ostile. «Il governatore ci precede su una terza fregata e forse sono già arrivati a destinazione. Io mi sono attardato a cercarvi tra le isole, coste e promontori e quindi ho perso tempo». Lo stupore di Lorenzillo gli impedì di arrabbiarsi subito. Rimase immobile, il tricorno fradicio fra le mani. «Cercavate me? Di Francia, di cui vi dichiarate subito. Quale delle navi attorno si chiama Conqueror?» Meccanicamente Lorenzillo indicò lo sloop che bordeggiava a tribordo e a poppavia del Neptune. De Lanversier si rivolse a un damerino impomatato quanto lui, di sicuro il primo ufficiale. «Signor de Revency, avevo indovinato, il vascello è quello, ordinate il fuoco!» Al comando di Revency, gli artiglieri sul ponte si precipitarono sotto coperta a raggiungere i compagni. Le ruote dei cannoni stridettero e il Gros du Lys oscillò sotto il peso dei pezzi spinti in posizione di tiro. Si udì il secondo ufficiale comunicare l'alzo. Lorenzio furibondo mise mano alla sciabola. «Ma cosa ti viene in mente, pezzo di...» gridò a Lanversier. De Lussane gli strinse il braccio e gli impedì di completare la frase. «Guardatevi attorno, mio capitano!» Fucilieri erano comparsi sul cassero di poppa, sul castello di prua, sulla torre di mezzo. Li affiancavano balestrieri con le frecce incoccate. I marinai semplici erano spariti per far posto agli armigieri. Dodici cannoni del Gros du Lys tuonarono in simultanea, sprigionando nubi di fumo grigio e puzzolente. Il Conqueror, guscio fragile e impreparato all'offensiva, volò letteralmente in pezzi. Gli alberi furono segati dalle palle incatenate. Lo scafo subì una sequenza micidiale di squarci. L'equipaggio in coperta venne martoriato da una pioggia di frammenti metallici. Lo sloop si inclinò rapidamente sul lato destro e si inabissò con altrettanta velocità. Soddisfatto, De Lanversier guardò Lorenzio. «Tocca a me punire la gente della vostra flotta colpevole di reati!» Tossì un fazzolettino a causa del fumo. «E adesso vi ordino di tornare sul vostro brigantino e di seguirmi fino alla tortuga. Avrete capito cosa la marina francese riserva agli indisciplinati?» Lorenzio non rispose, pallido. Si diresse alla scialuppa che lo attendeva in basso tra le acque ribollenti. Lo seguì lungo le griselle, la sua intera scorta sempre sotto il tiro dei moschetti. Ruggero, mentre prendeva posto sulla barca, si rese conto di nutrire sentimenti contraddittori. L'affondamento del Conqueror rispondeva a uno dei suoi più vivi desideri dopo ciò che gli uomini di Truan avevano combinato a Curaçao. D'altra parte, aveva finito senza volerlo col sentirsi parte dei fratelli della costa, e l'umiliazione di Lorenzio era anche la sua. Si trovava fra belve umane, lo sapeva, ma era tanto migliore la società civilizzata in cui De Lanversier apparteneva? La guerra e la strage parevano connotare sia la parte nobile sia quella illegale del consorzio umano. Forse aveva ragione De Lussan. Negli uomini non si era mai spento l'istinto animale. Se c'era da scegliere tra predatori, meglio stare con i più cinici, avidi e privi di scrupoli. Gli impulsi degli altri erano identici, solo sapevano celarli sotto un velo di buone maniere e di convenzioni da rispettare a partire dal principio gerarchico. Eppure Ruggero non riusciva ancora ad adattarsi a quelle regole di vita. Accantonò i suoi sentimenti contraddittori, distratto da Lorenzio che morire dissanguato, ci manca giusto una polena. De Lussan tossicchiò. «Se permettete, capitano...» Lorenzio lo fissò con odio. «Che cosa c'è, Medicastro? Consigliatemi prudenza e farete la stessa fine del conte dei miei coglioni. Non mi permetterei mai di contrastare i vostri giustissimi sentimenti di vendetta, mio capitano», disse il chirurgo impassibile alle minacce. «Lo spero bene. Tuttavia vi suggerirei di sfogare alla tortuga in territorio nostro. Quelle due fregate hanno molti cannoni e possono tenerci testa per un giorno intero. A terra De Lanversier non avrà difesa, sarà facile rapirlo, castrarlo in un bosco, darlo da mangiare ai cinghiali. E mi consigliate di pazientare davanti a un affronto?» Lorenzio schiumava di rabbia, però meno di prima. «Niente affatto, dico solo che non vi conviene perdere uomini e correre pericoli in mare, capitano. Alla tortuga sarà nostro quando vorremo. Mi offro fin d'ora di portare gli strumenti per rendere il supplizio lungo e doloroso. Lo faremo a pezzetti a poco». «De Lussan ha ragione», intervenne Calois. «Meglio una vendetta ragionata, capitano, che uno scontro difficile in cui quel De Lanversier potrebbe morire alla prima abbordata e togliervi ogni soddisfazione». Si trovavano ormai sotto la fiancata del Neptune. Lorenzio attese di essere a bordo, aiutato a salire da Le Bon per dire: «E vada per la vendetta lenta, la si consumerà a terra. Calois, avvertite gli altri capitani, si naviga di conserva fino alle due fregate. Alla tortuga li voglio vedere tutti per regolare i conti con la canaglia imparruccata», e sputò in mare. «Ma che viaggio di merda! battaglie e perdite in cambio di due soldi, adesso prigionieri di un cretino incipriato. Le Bon osservò: capitano, ci sono ancora alcuni superstiti del conquiro raggrappati ai rottami, forse è il caso di raccoglierli. Ma no, che crepino! Lorenzio fece un gesto infastidito. Sono loro la causa di tutto, li mangino gli squali. Calois, io mi ritiro nella mia cabina, non voglio essere disturbato fino all'arrivo alla tortuga. Pensate a tutto voi, intesi? Il primo ufficiale aspettò che Lorenzio fosse scomparso nel quadrato e poi disse alle Bon: non izzate la scialuppa, la useremo per raccogliere i naufraghi del Conqueror. Radunate qualche marinaio. L'anziano Nostromo rinunciò ad accendere la pipa che aveva appena estratto dalla saccoccia. Va bene, signore, però il capitano è furioso per motivi suoi, anche giusti, ma le regole dei Fratelli della Costa sono superiori alla sua volontà. I compagni in mare vanno salvati. Rogerio ebbe un'oscura premonizione di sciagure. Signor Calois, ve lo sconsiglio, osò dire. Sul Conqueror non c'erano che individui abietti, feroci, spesso deformi, una colda di criminali nati. Il primo ufficiale lo squadrò con ironia. Gesuita, e dove è finita la tua compassione cristiana? Di quei disgraziati ne è rimasto un pugno e sta per annegare o morire di freddo o essere divorato dagli squali. Il mare attorno a loro è filettato da flussi di sangue, un pranzo ghiotto per i pesci cani. Rogerio temette che il parlare di presagi lo rendesse ridicolo, chinò il capo. Sono d'accordo, signor Calois, vanno salvati. E lo credo anch'io. Il primo ufficiale si rivolse alle Bon. François, occupati del salvataggio, penserò io a trasmettere i nuovi ordini alle nostre navi. Rogerio, benché fradice, non pensò di scendere a cambiarsi. Il suo pensiero, porti carnali, questo è proibito, e nessun avventuriero oserebbe sfidare una regola tanto antica. Si udì provenire dal basso uno strido lacerante, senza dubbio femminile. Rogerio lo fece per slanciarsi, ma John Barton lo bloccò con l'avambraccio. Calma, gesuita, Pepe sta esercitando un suo diritto. Te lo assicuro, può molestarla in vari modi, ma non penetrarla. Dal gavone del ponte, sottostante, giunsero nuove grida che si trasformarono in singhiozzi. Rogerio fremette, Barton lo trattenne. Ma che te ne importa, gesuita? È una schiava, è un animale. Se vuoi ti procuro uno dei mozzi in attesa di arrivare a terra. Quanto alla negra fresca, è proveniente dall'Africa, equivale ad una capra. Non sarai mica geloso, spero, se qualcuno palpa una capretta che ti piace. Rogerio si sentì privo di forze, aveva la mente confusa. Marciò faticosamente verso la scala che conduceva al corridoio dei cannoni e agli alloggi della ciurma. Initiate in 5 seconds. questi erano Noise and Night con il brano Fireline, subito dopo la prima lettura per oggi di Tortuga di Valerio Evangelisti. È giusto per visto che si parlava di marina francese, marina, ci colleghiamo subito con una notizia di Controinfo al racconto, dove si parla di Clifton nel Regno Unito, dove c'è stato un attacco alla marina militare. Leggiamo il testo rivendicativo. 11 febbraio 2014, base della riserva della Marina Militare del Regno Unito, Royal Marines Reserve a Clifton, Bristol. La propaganda militare dipinge le forze armate come protettori del popolo. Fin dalla prima civilizzazione ciò è stato usato per giustificare la conquista e l'occupazione di territori a vantaggio della classe dominante, sacrificando i propri lacchè per costruire imperi grandi o piccoli. Si aspettano che crediamo, o che comunque agiamo come se ci credessimo, che ciò che è negli interessi dei politici, generali ed economisti è davvero nel nostro interesse. Ma non ci facciamo prendere in giro. Stamattina il fumo si è alzato sopra Clifton dai due furgoni e da un grande mezzo di trasporto personale bianco che abbiamo incendiato con esche rudimentali dopo essere entrati nel campo del distaccamento della Royal Marine Reserve. Ovunque ci sono i militari, essi sono il simbolo del dominio statale che rinforzano. Forse per chi ha a che fare con questo campo il simbolo adesso è stato un po' scosso. Per gli ingranaggi della macchina da guerra questi colpi guerriglieri, oltre le linee, restano una minaccia costante. Li vediamo reclutare nelle città, collegi e agenzie di reclutamento, attirare sfruttati e classi marginalizzate con denaro sporco di sangue, patriottismo idiota e la promessa di un'avventura che rimpiazzi la miseria, con i campi di addestramento macio o sale di controllo per controllo remoto di tecnologie omicide simili a videogiochi. Nonostante i tagli, la Gran Bretagna ha il quarto budget militare più grande del mondo, visto che gestisce un operato imperiale di genocidio e schiavitù. Oggi gli eserciti occidentali sono flessibili per le guerre democratiche espansioniste, interventi di peacekeeping per facilitare la nuova epoca coloniale della globalizzazione delle corporation, la controinsurrezione, le manovre geopolitiche e il controllo delle risorse. O si preparano per operazioni di polizia interna e crumi miraggio. I loro fini sono i soliti di sempre, come in Afghanistan, Mali o Libia. I potenti mentono, i poveri muoiono, il capitalismo guadagna. La guerra è una caratteristica permanente del sistema globale, foraggiato in una scala prima impensabile delle nuove tecnologie dell'organizzazione sociale di massa, ed è necessario per i potenti sia per il controllo sociale che per il benessere economico. La guerra del terrore, guerra della droga, guerra del petrolio, prima o poi la guerra per l'acqua potabile, questo è il corteo funebre della civilizzazione industriale. La schiavitù della pace ingabbiata nella Gran Bretagna post-industriale è davvero solo una sottile patina di ghiaccio che copre lo sfruttamento dei vari conflitti all'estero per terre, minerali e lavoro. Ampliando le fratture ci troviamo in questa situazione, situiamo i nostri attacchi in una ricca tradizione di rivolta e insubordinazione. La guerra sociale che è tra noi e ogni coercizione e lo sfruttamento della terra è l'unica guerra che accettiamo e conduciamo. Abbiamo il fine di sottolineare le chiare opportunità per lasciare la passività in un ordine sociale fondato sulla nostra collaborazione con ciò che ci opprime. Possiamo rivoltarci con ogni mezzo disponibile per la possibilità di una vita libera dall'autorità, individualmente o con chi ci sta vicino, sopraffacendo chi costantemente stravolge le nostre menti, le nostre relazioni e l'ambiente. Il sistema che include l'aspetto militare e altro cerca di trasformare ciò che amiamo in un regime di obbedienza, alienazione e comodità prive di vita. Per questo motivo devono allearsi con l'intolleranza e l'ostilità ovunque si trovano. Dovrebbero aspettarci. Con i giochi di potere dell'elite globale, solidarietà internazionale, contro la pace militarizzata della regina, guerra sociale, gruppo di ammutinamento della Federazione Anarchica Informale, FAI. Poi c'è un post scritto, nota bene, questo è il modo che conosciamo per onorare la tragica breve vita del nostro compagno Darko Matters, che questo mondo che dobbiamo lasciare, Darko è scappato presto. Desideriamo che chi ci aspetti, così un giorno potremo ballare insieme sulle rovine. Lo teniamo vicino non per un minuto di silenzio, ma per una vita di combattimento. ancora una volta le parole di Bruno Filippi. Per queste anime in pena del mondo, io vi chiamo a raccolta. Il vessillo è già al vento, è nero, tutto vuol dire. Avanti dunque, forsennati Prometei, l'urlo della vendetta è una musica dolce e cara. La controparte delle nostre forze di sicurezza in Russia si stanno riunendo per le Olimpiadi invernali, ricordando l'enorme spettacolo di truppe e guardie per i giochi di Londra e tenendo sempre a mente che l'evento comporta sempre repressione militare tra le altre atrocità, il nostro incendio dimostra che la fiamma antiolimpica continua a bruciare. Con forza nei nostri pensieri mentre andavamo in azione c'era Ilya Romanov, che è rimasto ferito ad ottobre 2013 in Russia e ora di nuovo prigioniero dei fottuti sbirri. Il nostro pieno supporto va agli indomiti Monica Caballero, Francisco Solari in attesa di processo per l'azione diretta a Saragozza, Spagna. Nessuna ritirata, nessuna resa. Infine questo attacco dà il benvenuto all'esplosione anarchica dei Black Bloc in Brasile e alle cellule incendiarie internazionaliste, tra le quali la FAI, e un saluto di cuore al gruppo di azione diretta internazionale GADI in Francia e ai prigionieri che lo scorso mese si sono ribellati nel carcere di Sua Maestà ad Oakwood qui in Inghilterra, meravigliosi nella loro rivolta. Avanti, più fuoco allo Stato, agli eserciti, alle scuole, alle chiese, alla burocrazia, alle carceri e alla civilizzazione che li crea. E questa era per quanto riguarda la prima notizia di controinformazione di oggi, un bel testo, una sintesi di azione che manca, ogni tanto manca, perché cioè, si parla sempre delle stesse cose, però a volte ci si dimentica di alcuni aspetti, tipo quello del militarismo che viene perso di vista a causa anche la repressione, gli sbirri, sempre militari, però comunque... Allora, ora ci ascoltiamo un brano di Leader Strip e Watch It Burn e poi dopo si torna qui con il continuo della lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. We'll be right back. l'isola dei Predoni. Dalla coffa di Trinchetto un marinaio gridò: «Isola in vista, prona via, è la tortuga!» Dal ponte del Neptune si levò un urrà. Tutti gli uomini in servizio corsero ai masconi per cercare di scorgere la loro metà. Rogerio si unì agli altri, spinto da una curiosità supplementare. A differenza del resto della ciurma, infatti, non aveva mai visto lo scoglio più temuto del Mar dei Caraibi, l'incubo degli spagnoli. La giornata era magnifica e soleggiata, il mare tranquillo. Spirava una brezza sufficiente a gonfiare le vele. L'aria limpida permise di scorgere una sottile linea di terra scura e, dopo un poco, i profili delle montagne. La flotta pirata, allineata dietro le due fregate francesi, avanzava con rapidità. Per la prima volta, dopo un isolamento volontario durato 3 giorni, Lorenzillo uscì dalla sua cabina e mise piede in coperta. Accigliato chiese a Calloa: «Ci siamo?» «Sì, capitano, è la tortuga. Entro in uno dei due canali del porto.» «No, gettate l'ancora a 3 miglia dalla costa, si scenderà a più riprese con le scialuppe, a seconda delle maree.» «Capitano, il porto è sicuro, lo sapete.» «Infatti il resto della flotta può approdare, il Neptune no. Voglio la mia nave a largo, lontana dalle fregate francesi. Fate mollare le vele e fermatele con i filacci. Ci si accosta con calma, si va a terra con le scialuppe e la barcaccia.» Rogerio fissava le concrezioni di corallo tra cui il Neptune, il Mutine e gli altri velieri stavano serpeggiando. Chi non avesse conosciuto i fondali come le sue tasche rischiava l'affondamento. La tortuga aveva una quantità di difese naturali. Le Bon lo raggiunse, le mani in tasca e la pipa in bocca. Il vento gli scompigliava i capelli bianchi. «Che te ne sembra della tortuga, gesuita?» «Non la vedo ancora bene.» Il nostro uomo allora passò la pipa nell'altra mano e puntò l'indice. «Sbarcheremo a Cayuna, la capitale. Non è l'unica città, ce ne sono altre. Vedi una montagna con sopra un fortilizio verso sud-est?» Rogerio strinse gli occhi e sforzò la vista. «C'è nebbia lassù, scorgo cime elevate coperte di vegetazione.» «Ebbene, fra poco vedrai meglio. Su una di quelle montagne, quella più alta, c'è un fort, il Fort Rock o il Fort Ogeron, che ripara la tortuga dagli assalti. Vi si accede per un camminamento che non permette il passaggio di più di 2 persone affiancate, e per raggiungere il corridoio è indispensabile usare una scala. Gli alberi attorno sono tagliati perché chi vuole avvicinarsi si esponga allo scoperto. Tra le mura, che ospitano una batteria di cannoni, sgorga una fonte di acqua potabile, utile in caso di assedio prolungato. Insomma, una roccaforte imprendibile.» «Ma gli spagnoli hanno mai tentato di prendere l'isola?» «Oh sì, 2 volte, ma molti anni fa. Ormai non ci pensano più.» Poco dopo furono visibili 2 canali che conducevano al porto di Cayona. Si scorgevano molti velieri all'ormeggio. Le Bon, puntando la canna della pipa, li descrisse ad uno. «Il brigantino a 3 alberi con lo scafo dipinto di nero è il Leardi, l'ammiraglia del cavaliere de Grammont. Vista da qua non sembra molto potente, però ti assicuro che in questo mare non esistono vascelli più letali. Di fianco a una fregata francese che non conosco e che suppongo appartenga al nuovo governatore de Chiussy, colui che vorrebbe farci deporre le armi. Che Dio lo fulmini!» «Ma sventola una bandiera curiosa, semplici sloop o golette dei più noti pirati, Le Sieur, Jeanquet, Vigneron, Lagarde, Pierre Bot, da poco divenuto capitano ma che ancor prima si era distinto per ardimento.» Chi scosse lui e Rogerio delle osservazioni oziosi fu Calloa, giunto silenzioso alle loro spalle. «Tu, François, e tu, gesuita, vedo che vi dedicate al viaggio di piacere. Peccato che ci sia da calare l'ancora e che Lorenzillo voglia ormeggiare al largo. O chiedo troppo?» I 2 corsero al largo, erano già in azione e unirono le loro forze a quelle dei marinai all'opera. Di castagna in castagna il cavo scorse finché l'ancora fece presa sul fondale. Il Neptune, spinto dal vento, quasi si inalberò. Tornato allora al cassero di prua di fianco al timoniere, Calloa gridò: «Imbrogliare tutte le vele, in acqua la barcaccia e le scialuppe. Aspettate l'elenco di chi può sbarcare e di chi resta a servizio a bordo.» Mezz'ora dopo le prime barche erano in mare, guidate dalla scialuppa più grande, la barcaccia. Rogerio vi montava a poppa subito dietro Lorenzillo e teneva il piccolo timone. La brezza leggera non riusciva ad alleviare la morsa di un sole abbaccinante che raddoppiava la fatica dei rematori e li faceva grondare di sudore. Il molo era affollato di curiosi scesi a salutare la flotta in arrivo. Uomini e donne di condizioni sociali discrete, in qualche caso vistosamente elevata, bucanieri vestiti di pelle, servi, schiavi, pirati in attesa dei loro amici, frotte di bambini. Da Fort Geron fu sparata una cannonata a salve in segno di saluto. Il Neptune, rimasto al comando di Calloa, rispose. Altrettanto fece il Gloire du Lis, che a differenza del brigantino di Lorenzillo stava direttamente entrando in porto e cercava un ormeggio. Rogerio si era aspettato che la tortuga fosse un isolotto selvaggio con condizioni primitive. Messo piede sul molo tra spruzzi di schiuma, scoprì di essersi chiaramente ingannato. Cayuna aveva l'aspetto di una cittadina coloniale di tipo spagnolo. Se prevalevano le capanne dal tetto in foglie di palma, non mancavano le costruzioni in muratura. È un solo piano e talora due, con tanto di porticato. C'era anche, sommersa tra gli alberi, una chiesetta leggiadra e variopinta con un bel campanile. Lebon notò la sua curiosità. Ah, quella è la chiesa fatta edificare dall'Olonné da Michel de Basque come ringraziamento per la presa fortunata di Maracaibo. Ci sono voluti anni per costruirla, però adesso è tra i fedeli più popolari della cattedrale di Cayona. Lebon non poté aggiungere altro perché fu soffocato dall'abbraccio di una nera avanti con l'età e da una torma di bambini mulatti. I pirati venivano circondati dalle loro mogli e dalle loro prole. Rogerio notò che perfino Henri Duval, tormentatore di Muzzi, aveva a terra una sposa dalla pelle scura e due pargoli, un maschio e una femmina. Un rullare di tamburi annunciò l'arrivo del governatore. Rogerio era solleticato all'idea di conoscere l'uomo che, a quanto pareva, doveva mettere termine alla pirateria sulla tortuga e rimase deluso. Dietro una doppia fila di soldati e una di tamburini scorse un piccoletto tutto piumaggi e stoffe dorate, sotto braccio ad una dama elegante molto più alta di lui, rinsecchita come una prugna dimenticata nel vassoio. Non fu l'omino a parlare, bensì un portavoce che si fece avanti. Il signor de Cussy, governatore della Tortuga, ringrazia Hubert de Lambersier e Laurent de Graff delle imprese coraggiose condotte a termine a nome della Francia. Purtroppo oggi soffre di un terribile mal di testa e invita i nominati, oltre agli altri valorosi capitani dei cosiddetti fratelli della costa, a fargli visita tra due giorni, all'ora di pranzo, nella sua residenza. Dov'è il conte Frontignan? Deve ancora sbarcare, rispose qualcuno. Il Gloire du Lis non riesce a trovare l'ormeggio giusto. Ebbene, appena a terra, questi si presenti al signor governatore che desidera conferire con lui. Detto ciò, portavoce, governatore e consorte volsero le spalle agli astanti e risalirono la via dritta e polverosa che attraverso Cayona conduceva in collina. I soldati attorniarono il gruppetto, i tamburini seguitavano a battere le bacchette. A metà cammino un cocchio semplice ma elegante attendeva De Cussy e la sua sposa. Si mette male, commentò Lebon. Ogeron, il più grande dei governatori, aveva un modo di fare molto diverso. Lorenzillo, che era poco distante, sputò nella sabbia. Mordie, mi porti il demonio se quello non è il peggiore legume imputridito rigettato dalla corte di Re Luigi. Tutti qua finiscono gli avanzi. E si guardò attorno per vedere quanti erano i pirati. Uomini, chi ha una casa ci vada, chi non la mi segua, pronti a radunarsi al primo fischio. Cercherò di vedere il capitano de Grammont, scommetto le palle che di fronte a lui il nanerottolo abbasserà la cresta. Sciogliete i ranghi. Rogerio non aveva casa e si incamminò dietro Lorenzillo. Lebon, abbracciato alla consorte e circondato dai figli, gli toccò la spalla. Ermano, se non trovi da dormire, vieni da noi. La mia casa è una semplice capanna, però c'è sempre posto. Grazie, rispose Rogerio. Seguirò il capitano. Sperava di vedere finalmente quel de Grammont di cui gli equipaggi narravano meraviglie. Come vuoi, gesuita, ricordati dell'offerta. Le vie di Cayone avevano un solo dettaglio che le distingueva da quelle delle altre cittadine costiere del Mar dei Caraibi. Come nella corrotta Port Royal, vi proliferavano le taverne, quasi una per caseggiato. Malgrado si fosse appena entrati nel tardo pomeriggio, alcune erano già aperte. Uomini giovani e rudi, vestiti spesso con stoffe e sete che la loro condizione non giustificava, bevevano sulla soglia e scambiavano saluti con i marinai di Lorenzillo che conoscevano, alzando il bicchiere. dall'interno delle bettole venivano le esclamazioni dei giocatori e canti smozzicati. Passavano bucanieri preceduti da schiavi che tenevano mute di cani alla catena, mentre i servitori reggevano fucili pesantissimi o trasportavano a spalla cinghiali appena abbattuti. Per il resto i passanti erano ordinari, e le botteghe pure: maniscalchi, fruttivendoli, sarti, carpentieri, vasai. Alcune casupole affogate nella vegetazione parevano costruite con legno ricavato da navi demolite. Si riconoscevano scale che erano state biscaglie e terrazze che erano appartenute al giardinetto di poppa o ai diversi castelli. Secondo il gusto caraibico, quelle costruzioni erano state dipinte di azzurro, blu, rosso, e ciò le distingueva dalle abitazioni in pietra tinte con calce bianca. L'odore del mare condata da palme e alberi di limoni. Una campanella pendeva dall'arco che dava accesso al giardino, al centro di un muro basso da cui pendevano le bougainville. Rogerio stava pensando, come quasi sempre, alla schiava imprigionata sul Neptune. Lo inquietava il fatto che Pepe non fosse ancora sceso dalla nave portando con sé la preda. Appena possibile sarebbe tornato al porto. Adesso però la curiosità di vedere il leggendario di Gran Monte ne va bada in lui ogni altro sentimento. Thank you. E questo era Hall Bauman con il brano Brit Original Mix. Ora si ripassa alla controinformazione. Si ripassa alla controinformazione, quella in Europa, a Barcellona in particolare, dove sono state attaccate sia una radio che una sede di un giornale cattolico. Io ho messo una prefrazione al testo rivendicativo. Praticamente si è deciso di riportare il testo di rivendicazione dell'azione diretta contro alcuni simboli della Chiesa, sebbene si pensa che il femminismo sia un male quando lo possa essere il maschilismo, quindi entrambe formano quello che viene detto sessismo. Ho ritenuto comunque importante pubblicare la notizia perché, specialmente nella nazione che ospita lo Stato Vaticano, sembra essere sparito del tutto alla critica al clericalismo. Allora, leggiamo il testo di questa azione. In queste settimane azioni autonome contro l'abolizione della legge sull'aborto dall'1 al 7 febbraio 2014 abbiamo preso le strade per sfogare la nostra espressione di rabbia. Nelle prime ore di giovedì 6 febbraio abbiamo attaccato gli uffici di Radio Estel, emittente dell'Arcidiocesi di Barcellona e la sede della rivista Catalunya Cristiana, che si trova all'angolo di Pugari e Comet nel quartiere di Santo di Barcellona. Abbiamo deciso di agire contro questa radio perché è un mezzo di comunicazione a servizio della Conferenza Episcopale Spagnola e come tale tende ad indottrinare e manipolare attraverso catechismi velati le informazioni, difendendo il patriarcato misogino e modello sociale normativo contro cui combattiamo. Per queste ragioni, in difesa della lotta femminista e come autodifesa delle nostre vite, delle idee e degli organismi propri, abbiamo rotto le finestre di vetro e dipinto lo slogan "Il mio corpo, la mia decisione". Siamo disgustate dalla loro morale cattolica, marcia tanto quanto noi detestiamo lo Stato e i suoi trucchi politici e legali. Questa nuova legge sull'aborto rende evidente ancora una volta che c'è un legame tra le due istituzioni, la Chiesa e lo Stato, al fine di mantenere la loro autorità, il loro potere patriarcale. Vogliono toglierci la nostra autonomia, la nostra capacità di decidere e pensare per noi stessi e agire su quello che ci serve o sentire. Con questa legge antiaborto decidere di non essere una madre sarebbe diventato un lusso solo per i ricchi che possono permetterselo, o un rischio per la salute e la vita di coloro che non possono permettersi una clinica segreta. Noi non siamo disposti a permettere loro di trasformarci in loro oggetti, non lasceremo mai loro decidere per noi e continueremo a difenderci da coloro che vogliono limitarci ad essere solo riproduttori del loro sistema. Né Dio, né Stato o marito, morte al patriarcato. E questo era il testo rivendicativo delle femministe, che non fa una piega, almeno in questo testo fa una piega tutto il resto del discorso sul femminismo, che per me resta comunque uguale, non cambia di una virgola rispetto al maschilismo. Penso che ognuno, cioè l'individuo è individuo, quindi il sesso è una particolarità, ovvio che tra donne c'hanno un qualcosa e uomini ce ne hanno altro, non parlo a livello di fisico, ma a livello pure di emozioni, sensibilità, però questo non significa che comunque io possa accettare una tesi come femminismo, che per me è uguale al maschilismo. Ora ci ascoltiamo un brano dei Factor Floor, prima di passare alla nuova lettura di Tortuga. Il brano è Lying e dopo Tortuga. Thank you. l'uomo nero. Dopo innumerevoli scampanellate, una vecchina dalla pelle scurissima uscì dalla villetta e raggiunse il cancello. Riconobbe Lorenzillo, ma guardò con sospetto gli uomini che erano con lui e portò un dito alle labbra. «Non fate tanto chiasso, capitano De Graff», disse in francese. «Il cavaliere è in preda ad un accesso di gotta e tutto lo nervosisce. Il dottore Schemelin cerca di calmargli il dolore. Non è il momento giusto per una visita». «Ex Schemelin?» Delussan, che aveva seguito i compagni a distanza, si fece avanti. «Marie Claire, avvertitelo che sono qua. Se non è possibile fare visita al cavaliere, mi piacerebbe almeno parlare con lui». La vecchietta sorrise. «Ah, voi, dottore, sono contento di rivedervi. Vado subito ad avvisare il medico». Aprì il cancello, però subito dopo indurì l'espressione. «Non è possibile far entrare tutti quanti, fareste troppo rumore». «Avete ragione», disse Lorenzillo, più accomodante del consueto. Si rivolse ai suoi. «Vengano con me, Delussan, ex Schemelling, le schelette che ha servito sulle Ardi», e batté con l'indice sul petto di Ruggero. «Vieni anche tu, che hai delle buone maniere, però non lasciarti sfuggire cosa facevi prima di andare per mare, De Grammont non gradirebbe. Gli altri ragazzi girino per Caiuna a spassarsela e a trovare dove dormire». L'anziana negra entrò nella villetta. Poco dopo uscì dall'abitazione un uomo alto e barbuto, con i capelli grigi, lunghi fino alle scapole. Indossava una rendicote nera e affondava la barba in un ampio colletto increspato di forma circolare. Il suo viso lasciava perplessi. Ci si chiedeva se fosse quello di un vecchio, rimasto roseo di guance, oppure se il reticolo di grinze sulla fronte alludesse a esperienze dolorose che avevano segnato la sua età. Matura, ma non troppo. «Alexandre!» gridò Delussan. «Oh, Ravenò, che piacere vederti!» I due si abbracciarono, ma senza una vera foga, come se entrambi rifuggissero dal contatto fisico. Subito dopo, Schemelling si portò davanti a Lorenzillo e nel salutarlo, oltre a togliere e a far sventolare un cappello nero dalle tese lunghissime, piegò addirittura un ginocchio. «Capitano De Graff! Qui non si parla che delle vostre imprese spettacolari. In 6 mesi di crociera avete catturato più galeoni di quanti gli spagnoli riescono a costruire in un anno». Lorenzillo fece una smorfia. «Sì, ma con un bottivo complessivo degno di un pitocco. Rialzatevi, Alexandre Olivier, e ditemi, il cavaliere De Grammont sta veramente molto male». Raddrizzatosi, ex Schemelling alzò le spalle. «Sono i soliti attacchi di gotta, li curo con infusi di colchico autunnale che faccio venire dall'Europa e con l'aloe che cresce qua. Il dolore passa, ma l'umore del cavaliere peggiora. Davvero la preda è stata così scarsa? Una schiava in tutto, già assegnata a un mutilato, e una stiva colma di robaccia». Lorenzillo sputò, ma anche il grumo di catarro gli uscì fiacco. «Ci serve una grande impresa, degna di quella di Veracruz. La conquista di una città ricca di magazzini, con una borghese da spremere, da far lacrimare più centinaia di schiavi da vendere all'Havana. Di questo vorrei parlare a De Grammont. È proprio così difficile vederlo». «Beh, oggi sì, domani dovrebbe essere diverso, ma venite, approfittiamo del suo salotto». Rogerio, udendo il riferimento alla donna da cui era attratto, era trasalito. Gli venne una gran voglia di correre al porto per sapere da dove veniva trascinata. Dovette però seguire gli altri e prendere posto nella prima ampia stanza della villetta. Chiamarla salotto era esagerato. Non c'erano ninnole né tappezzerie, solo pareti nude, 2 divani, una poltrona e un tavolino. Una scala di legno portava al piano superiore, lungi dal somigliare alle lussuose magioni coloniali spagnole, francesi, olandesi, portoghesi o inglesi, la saletta pareva piuttosto l'atrio di un convento. Scarafaggi o scorpioni, questa è la sola casa della tortuga senza parassiti di nessun tipo, nemmeno le pulci che sono dappertutto. Quando un insetto appare su un muro, il cavaliere si diverte a ucciderlo lentamente, facendolo soffrire il più possibile. Chi taglia con un coltello le ali, le zampe, le antenne e poi lo schiaccia fino a fargli schizzare fuori le budella. Solo alla fine gli recide la testa. A parte Rogerio, tutti risero. E Lorenzillo commentò: «Fa così anche con gli uomini. A Veracruz inventava ogni sorta di supplizio Quando le urla erano troppo acute, faceva tagliare alle vittime le corde vocali. Poi procurava loro inchiostro, carta e penna perché confessassero per iscritto dove avevano nascosto i loro tesori. Purtroppo, il più delle volte i prigionieri lordavano il foglio con getti di sangue. Si rise ancora, il primo a tornare serio fu proprio De Lussan. Il cavaliere De Grammont è un saggio, ha capito da un pezzo che il corpo umano è solo un sacco pieno di pattume. Sei solo tu che fatichi a convincertene, caro Alexandre. Eppure, sei chirurgo come me. E l'anima, dove la metti, Ravenuti, Sex Cameling? Non dirmi che ritieni un uomo simile a un pollo, a una scimmia o a un negro. Noi siamo esseri senzienti. De Lussan sogghignò. Crederò all'anima quando l'avrò sulla punta del mio bisturi. Siamo esseri senzienti, sì, ma solo perché fisiologicamente più complessi degli animali. In realtà ci comportiamo come loro, senza riconoscerlo. Lo sai anche tu, Alexandre, benché tu non osi dirlo. Ah, il tuo solito cinismo, Ravenou. Ex Kemeling scosse il capo. Lo stesso cinismo che spinge gli spagnoli a estinguere gli indigeni. Li considerano cose invece che persone. L'atteggiamento ironico di De Lussan non mutò. Ah, ciò ha indotto voi umanitari a partire da Bartolomé de las Casas a implorare di commerciare i negri anziché gli indigeni quale merce sostitutiva. È con questo niente. Il mio discorso si ferma qua. Ritengo giusto che un uomo che ne possiede un altro, se è più forte di lui, che lo torturi e lo squarci come un sacco vuoto, purché ciò rientri nella sua convenienza. Ma per favore non si invochi qualche norma morale nel fare ciò. Mi piacciono i fratelli della costa proprio perché rubano, uccidono, torturano e violentano senza giustificazioni etiche. Gli spagnoli mi sono odiosi perché fanno lo stesso, però ogni volta dicono che Dio benedice le loro azioni. La conversazione, in verità, stava annoiando tutti gli astanti. Rogerio era l'unico a esserne scandalizzato. In Portogallo o in Spagna le proposizioni blasfeme di De Lussan lo avrebbero condotto a rogo. Solo nelle Indie occidentali, terre di convinzioni miste, di etnie amalgamate, un libertino come il chirurgo poteva esprimersi con tanta disinvoltura. E nemmeno dappertutto, no? Ma la tortuga sì. Rogerio si chiese se anche la donna che lo aveva attratto, dire di amarla per davvero era stato un pretesto per sedurla, fosse classificabile come umana oppure animale. Al riguardo la Chiesa non aveva al momento una posizione chiara. Riconosceva da secoli anche l'anima delle femmine. Però circa i negri era reticente, anche per non ostacolare un traffico effettivamente fruttuoso di cui beneficiava l'intera Europa. Dopo la controversia di Valladolid, raccomandava pietà per gli indigeni del Nuovo Mondo, tuttavia condannata in linea di massima la loro schiavitù, stigmatizzata già da un secolo prima e poi di fatto consentita, sui negri d'Africa non diceva una parola. C'erano interessi troppo lucrosi in gioco. L'insofferenza comune fu espressa da Lorenzillo, che muoveva da un pezzo gli stivali sul tappeto di stuoia. Accettò un bicchiere che gli porgeva la vecchietta negra, ma lo posò sul tavolo, si rizzò in piedi. Beh, tacete una buona volta, basta lasciare due medici liberi di parlare e quelli filosofeggeranno per ore su cose inutili, e fissò Ex Kemeling. Dottore, veniamo al sodo. So che il nuovo governatore dei Chiussi si è già insediato. È vero che vuole impedire agli avventurieri di continuare a predare le navi spagnole? Purtroppo sì. La risposta venne dall'alto. I presenti sollevarono il capo, il cavaliere De Grammont era apparso sulla balaustra del piano superiore e stava scendendo faticosamente le scale aggrappato alla ringhiera. Ogni passo gli costava una smorfia. La discesa claudicante faceva scricchiolare i gradini. Ex Kemeling gli corse incontro. Capitano, vi avevo raccomandato riposo. L'altro lo scostò. Ho preso il colchi, costò molto meglio. Tutti si erano alzati e tolti il cappello. Rogerio osservò affascinato quel personaggio già entrato nella leggenda. Michel De Grammont era di statura media ma di taglia non imponente. Gli abiti che indossava erano grigi e neri, dai pantaloni al giustacuore al mantello. Nessun fregio, nessun ricamo argentato. Era il suo viso che lo strappava alla mediocrità. Capelli lunghi sulle spalle, volto scavato, baffi sottili, pizzo imbiancato sulla punta, occhi infossati e febbricitanti. Emanava una contagiosa sensazione di malinconia cui era impossibile sottrarsi. Malinconia non arrendevole, però, tutt'altro. In quel luogo non si leggeva abbattimento, piuttosto il piegarsi a un destino di crudeltà, pulsioni violente troppo forti per essere contrastate. Rialzatevi. Lorenzillo, imitato dagli altri, si flette a mezzo busto. Sono contento di rivedervi, signore. De Gramona allora raggiunse un divano e vi sprofondò con un sospiro. Ex Kemeling si mise alle sue spalle. Risponderò subito alla vostra domanda. Siamo abituati a combattere guerre per conto altrui. Adesso non so quali sviluppi delle politiche europee. Si vuole liquidare la filibusta. De Chiussier è venuto ad affossare la tortuga, niente meno. Un'impresa che agli spagnoli non è mai riuscita. E noi che si fa? Gli occhi di De Grammont fiammeggiarono come due tizzoni. E me lo chiedete, capitano De Graff. Combatteremo, è chiaro. Contro i francesi, chiese Lorenzillo perplesso. No, contro nemici ormai antichi. De Grammont strizzò gli occhi. Ho in mente un'impresa che resterà nella memoria per secoli. Se siamo destinati a essere gli ultimi fratelli della costa, usciremo dal teatro solo dopo aver irrorato di sangue il palcoscenico, carichi di ricchezze ancora temuti. Accederanno la caccia a tutte le flotte. E ben vengano, abbiamo ottimi cannoni. Ma nessun rifugio, nessun porto in cui gettare l'ancora. Meglio così. Questo infonderà ai nostri uomini il coraggio della disperazione. Lorenzillo parve riflettere e abbassò la voce. Posso chiedervi dove andremo, signore? E De Grammont rispose. A Campeche. Yeah. E allora, dopo questa ennesima lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti, si ritorna con la controinformazione, e questa volta si va in Cile, dove c'è un comunicato di Sembrando Tormentas Ediciones. Sembrando Tormentas significa seminando tempesta. Leggiamo il testo del compagno che cura queste edizioni. Anche se abbiamo ricevuto colpi, non ci vedranno vinti, per chiunque sia interessato. Come alcuni già sapete, un paio di settimane fa, un giorno qualsiasi, un gruppo di merda in uniforme, leggere Carabineros de Chile, mi ha fermato e rubato, sequestrato, circa 20 libri e 10 opuscoletti mentre ero al banchetto abusivo che faccio per diffondere pubblicamente e apertamente idee di rivolta contro l'esistente attraverso libri, libretti e opuscoli nella città di Puerto Montt. Dopo questa situazione, chi passava spesso di là per parlare, discutere, condividere, criticare, insultare, eccetera, eccetera, non mi troverà più, perché ho deciso di lasciare questo spazio fisico al fine di evitare tale situazione, che è possibile prevenire o affrontare meglio quando siamo numericamente superiori al momento. Sapevo che sarebbero arrivati con qualsiasi scusa pur di evitare la fastidiosa propagazione e la tensione riguardo alle idee anarchiche, e questa volta lo hanno fatto con una scusa giuridica di violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Detto questo, il presente progetto anarchico continuerà ostinatamente le sue avventure come sempre: pubblicazione, traduzione, diffusione, lo scambio e la tensione. Sembrando Tormentas Ediciones, poi per chi vuole, sotto l'articolo dove c'è il nome dell'edizione di questi compagni, ci clicca sopra, è un link e vi riporta alla pagina loro, dove c'hanno un po', cioè c'hanno un catalogo con tutta la roba che pubblicano, insomma. Vabbè, questo era giusto per far vedere il livello, per far notare anche il livello di tensione che si respira ultimamente sia in Cile ma soprattutto in Messico, in Sud America in particolare, dove ci sono a ripetizioni perquisizioni, arresti, anche qualche sequestro, come all'epoca dei desaparecidos. Allora, un bel momento di merda che stanno attraversando i compagni laggiù nell'America Latina. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono il Giardino Violetto con il brano Liquid Sensation Display, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Skelet, un normanno di Le Havre fuggito da una nave da guerra e finito la tortuga per puro caso, risultò essere un tipo simpatico, magrissimo. Allampanato, curvo di spalle, si incaricò di guidare Rogerio nelle vie di Caiona, dopo che la luna era tramontata. Nostromo, esordì. Non mi chiamare Nostromo, per il momento sono solo un contramasto sul Neptune. Però il Cavaliere de Grammont vi ha accettato come nocchiero sulle Ardi? Beh, per ora è solo un'intenzione, nemmeno una promessa. Oh, lo sarete. L'escaletta annuì come se la sapesse lunga. Il Cavaliere ha bisogno di uomini come voi. Ogni volta che va per mare riporta a casa ricchezze inaudite, ma perde la metà dell'equipaggio. E i nostromi, si sa, sono i primi a cadere. Nella ciurma sono i più ambiti perché sono merce rara. Nemmeno cannonieri e bucanieri valgono altrettanto. Rogerio non immaginava di contare qualcosa e non ne era per niente compiaciuto. Guardò la strada buia e chiese alle scolette: «Sai dove potrei abitare? Lorenzillo ha parlato di una casa a disposizione mia, di Le Bon e di non so chi altro. Sono anche pronto a tornare sul Neptune, se occorre». Malgrado il buio, fu evidente che il marinaio guardava il portoghese con stupore. «Scherzate! La casa dove mettervi la conosco, ma è molto presto, la vita della tortuga comincia adesso. Nessuno tornerebbe senza buone ragioni su un brigantino puzzolente di catrame». E in effetti, se Caiona appariva immersa nell'oscurità, locande e taverne proiettavano le loro luci sull'arteria sabbiosa, al momento deserta, che attraversava l'abitato. Ne provenivano grida e canzoni, e una di queste ultime Rogerio la conosceva fin troppo bene. «D'accordo», disse, «accompagnami dove preferisci, però non ubriacarti troppo. Devi condurmi al luogo in cui passare la notte». «Ah, il rum migliore è laggiù». E le scalette indicò un'osteria non lontana dal porto. «Scommetto che metà dell'equipaggio del capitano Lorenzillo sta già spendendovi la sua parte di bottino. Dite, gesuita, pagate voi». Rogerio corrugò la fronte. «E va bene, pago io se non esageri». Le scoletta allora diventò radioso. «Oh, magnifico, berrò poco, ve lo prometto, seguitemi, contramastro». La taverna aveva due piani e per raggiungere quello aperto al pubblico bisognava salire una scaletta. L'insegna le diceva il nome, la Tête de Porc. Musica e grida si udivano anche a distanza. Una nuvola di caligine usciva dalla porta senza battenti. Giunto sulla soglia, Rogerio fu preso da una gran voglia di scappare. L'ambiente, senza essere ancora pieno, era gravido di odori troppo intensi, dal tabacco ai profumi delle prostitute fino ai fumi degli spiedi sul fuoco. Rogerio conosceva molti dei presenti, il capitano Agreszon, per esempio, a cui una donna dalla pelle scura, curva sotto il tavolo e con la capigliatura ricevuta fra le gambe del pirata, stava rendendo un servizio osceno. Agreszon non vi badava più di tanto e, a parte rari momenti estatici in cui socchiudeva gli occhi, pensava soprattutto ad attingere assieme a numerosi sconosciuti. Si giocava a dadi o a carte, ma principalmente si beveva e ci si lasciava strusciare dalle donne, molte delle quali assieno scoperto, che si aggiravano fra i tavoli in attesa di un invito. Henri Duval, che doveva avere gusti disparati, smise di tastare la mona che aveva tra le braccia per rivolgere a Rogeri una strizzata d'occhio quasi amichevole. Il negro Bamba, accudito da 3 femmine della sua razza, lo salutò con la mano prima di affondare le dita sotto le gonne di una schiava che gli stuzzicava il capo con grosse mammelle pendenti. «Ma tutto ciò è intollerabile», mormorò Rogerio. «Schifoso, dove diavolo mi hai portato?» L'escaletta allargò le braccia. «Ma questa è la tortuga, contramastro, si sa che si muore presto, e così ci si sfoga finché c'è tempo. Port Royal è molto peggio, e così le altre taverne di qui. Vi ho condotto nel locale più decoroso non solo di Caiona, ma di tutta l'isola. Volete cenare?» Rogerio fu tentato di rifiutare e invece finì con l'annuire. «Perché no?» «Ah beh, allora ci sono vari tavoli liberi, scegliete voi quello che preferite. Intanto vado a ordinare, un arrosto vi va bene?» Il portoghese fece una smorfia. «Se non c'è altro può andare, preferirei però dei chorizo, delle salsicce, ne fanno qui?» «Sì, ma il più delle volte sono di cinghiale, non di porco. E vada per il cinghiale e fammi portare anche una caraffa di vino rosso.» Era inusuale per Rogerio dare ordine ed essere obbedito. Le schelette pareva il solo pronto a dar diretta. Appena il portoghese si fu seduto, le prostitute cominciarono a sciamare verso di lui. Nessuna di loro era bianca, si andava dalle tinte ambrate a quelle più scure. Ex schiave? Poteva essere. Alcune di loro recavano sulla carne scoperta marchi elaborati. Vestivano abiti trasparenti, rappezzati in più punti che non riuscivano a nascondere i segni delle frustate. Cicatrici che non si sarebbero rimarginati mai più. Diverse donne si curvarono sul Rogerio per mostrare il contenuto delle loro scollature. Parlavano in spagnolo. «Te gusta mis tetas, caballero?» «Non ho tariffe alte, per una piccola mancia ti do anche il culo.» «Lascia stare le alte sgualdrine e toccami sotto la gonna, su via, non essere timido.» «Andatevene!» urlò Ruggero esasperato e non si accorse nemmeno che stava gridando. Le donne gli lanciarono insulti coloriti in molte lingue e si allontanarono. «Lasciatelo in pace», disse loro Cliché ridendo, «è un religioso.» «E poi è innamorato», aggiunse Barton nell'interrompere la partita a dadi in cui era impegnato. Rogerio odò Barton più di quanto odiasse tutti gli altri presenti, prostitute comprese. Stava approfittando della confidenza che era nata tra loro. Tuttavia non ebbe l'ardire di rimproverarlo, nemmeno con una semplice occhiata. L'altro avrebbe potuto usare ciò che entrambi sapevano per farne oggetto di beffa con gli amici, e lui non l'avrebbe sopportato. Preferì chinare il capo e stringersi nelle spalle come per scomparire. Non vi furono strascichi. Le scolette tornò subito seguite da uno schiavo dell'oste, un bianco di mezza età che reggeva cibo e vivande. «Non dovreste comportarvi così, contromastro», disse il marinaio in tono di rimprovero scherzoso. «Concedervi qualche donna non vi farebbe male. Si resta a terra per breve tempo, poi si riparte per mesi e mesi. Avete visto poche indigene, ma vi assicuro che sono tutte bruttissime, e in mare non avrete altro a parte i mozzi.» «Già, i mozzi.» Rogerio si chiese che vita facessero alla tortuga fra un imbarco e l'altro. Probabilmente servivano come valletti nella casa di qualche bucaniere. Certo si riprendevano dalle violenze sessuali patite e da quelle che avrebbero subito una volta tornati a bordo. Forse le donne della taverna erano le loro madri, forse queste, azzardò col pensiero, offrivano il loro corpo per proteggere i figli dalla lussuria dei predoni. No, era un concetto troppo gentile, estraneo al contesto. La tortuga, le sue osterie, le navi, avevano un che di demoniaco, anche il cupo de Grammont, anche il selvaggio Lorenzino, che pure per qualche verso gli riusciva simpatico. Vi fu chi parve a leggergli nel pensiero, era il capitano Adriesson, che gli andò di fronte, un boccale di birra in mano. «Posso?» chiese nel tono di chi in realtà non si aspetta una vera risposta. «Gesuita mio, prendete una piccola società interamente votata alla guerra. Vi aspettereste buone maniere e remore morali, pensateci su via.» Mentre parlava, con la sinistra Adriesson rimetteva il pene nelle brache, come se fosse la cosa più naturale del mondo. La sua amante, di un istante prima, era di nuovo sotto un tavolo, con in bocca il membro di un altro pirata. I giocatori parevano indifferenti a tutti, però attorno a loro si stava allestendo una vera e propria orgia. Tutti ridevano e gridavano e vuotavano i bicchieri in poche sorsate. Alcune donne erano ormai completamente nude. «Sedetevi, capitano», disse Ruggero indicando la panca di fronte. «Quanto alla vostra domanda, capisco ciò che intendete. Non mi aspettavo molto di meglio, ma nemmeno un girone infernale». Intimidito dal grado del commensale, l'escheletto si alzò frettoloso. «Perdonate, contramastro, resterò in sala. Se avete bisogno di me, non avete che da chiamarmi». Il suo imbarazzo durò poco. Raggiunse una prostituta dalla carnagione color ebano, l'afferrò da dietro per i seni e la trascinò verso un angolo meno illuminato della sala, peraltro già sovraffollato di coppie ansimanti. Adriston non prestava al contesto la minima attenzione. Sedette e accese con calma la pipa. Riccioli biondi gli scendevano sul colletto tondo e inamidato una successione di increspature. Vestiva una casacca semplice con alamari e aveva un mantello grigiastro che un tempo doveva essere stato bianco. Posò il cappello piumato di fianco a sé. Prima di rispondere a Ruggero esalò qualche nero della bocca, parlò in francese ma senza R mosce. «Ritenete la tortuga un inferno e così la nostra vita e le nostre navi». Un poco inebriato dal terzo bicchiere di vino, Ruggero, in linea di massima portato a non bere molto, annuì. «Lo confesso, capitano. Sul Neptune ho ascoltato storie orribili di tortura. Io stesso ho partecipato ad arrembaggi in cui non si aveva nessuna pietà. Su queste sponde la crudeltà è legge. Però non credevo fino a questo punto. Si combatte per la Francia, la più civile delle nazioni europee. E come mai qualsiasi delitto che là sarebbe sancito qui è norma?» Tra sbuffi di fumo, Adriston scoppiò a ridere e mostrò dei denti ingialliti dal tabacco. «Voi vi illudete che là ci sia più civiltà? Grave errore! Il livello di civiltà di un popolo si giudica dai suoi crimini. Non parlo tanto dei delitti raffinati, quanto di quelli commessi dal popolaccio, oppure legittimati dallo Stato. I primi spesso coincidono con i secondi. Guardate il nostro caso. Fino a un mese fa eravamo comodi esecutori di interessi altrui. Prendete i galeoni spagnoli e svuotateli, e il 90% all'equipaggio, il resto al governatore. E adesso? Lo sapremo domani, è previsto il primo incontro tra il cavaliere De Grammont e il governatore dei QC. Tutti sono liberi di assistervi e vi consiglio di farlo, voi sapete leggere». «Sì, anche se ormai lo faccio raramente». «Beh, se vi ricapitasse, scartate le storie piacevoli, le commedie, le poesie d'amore licenziose, le narrazioni edificanti, i trattati filosofici, robaccia. Solo le tragedie hanno valore. Mi si narra di come un uomo muore, uccide e vede uccidere e lascia che qualcuno sia ucciso». «E dunque, secondo voi, è il male l'essenza della vita?» «No, lo è la morte, che non è né un bene né un male, è inevitabile». Ruggero pensò che Adriston fosse stato influenzato dal pessimismo di Delussan, ma subito dopo arrivò ad una diversa conclusione. Quella doveva essere la filosofia generale, se era lecito chiamarla così, dei Fratelli della Costa. Si sentì oppresso da un peso insostenibile. Dalla sala gli giungevano risate e i gridolini acuti di donne che fingevano l'orgasmo, davano sollievo a uomini senza speranza. Per un attimo, ma per un attimo solo, Ruggero desiderò che lui sfogare tra le cosce di una prostituta il disagio che lo angosciava. Subito dopo pensò alla schiava rinchiusa nel gavone e ciò lo rassenerò un poco. Adriston, Delussan e tutta la filibusta avevano torto. Il loro culto della morte era assurdo, esisteva qualcosa per cui valeva la pena di battersi al di là dei beni materiali di cui fruire nell'immediato. Intercettò un'occhiata ironica di Adriston, che ancora una volta pareva aver letto nei suoi pensieri. Portò alle labbra la coppa di vino per sottrarsi a quello sguardo. A smile. listen and behold, finally the truth be told. We're only in it for the money, to dip our fingers in your honey. We pretend to no end, we are bitches for your riches. Tra il cavaliere De Grammont e il governatore De Chiusy ebbe luogo nel porto di Caiona, tra il molo e i magazzini, dove erano sistemati due cannoni arrugginiti. Nei pressi oscillavano i vascelli all'ancora in un mare trasparente, arrossato, in lontananza dai banchi di corallo e tinto di verde presso la costa, dai riflessi della vegetazione che copriva la tortuga, spingendosi tra le case fin sui bordi dell'acqua. La procedura era, dal punto di vista di Rogerio, inconsueta. In nessuna parte del mondo un'autorità reale avrebbe discusso all'aperto col capitano di una nave in presenza di testimoni. Alla tortuga invece pareva essere la norma. Decine di pirati sedettero sui muretti, sui rotoli di cordami, sulle ancore arrugginite, sui barili e sulle spone delle barche tirate in secco. Altri, ancora più numerosi, rimasero in piedi, le braccia incrociate. Fornivano una sintesi di tutta l'umanità di varia provenienza che, in un secolo e passa, si era radunata sull'isola. Giovinastri arroganti, vecchi dalle prime mutilazioni, bucanieri barbuti, piantatori di tabacco che avevano lasciato per un giorno agli schiavi le loro culture. E non mancavano nemmeno le signore. La sera prima, l'Escalette, mentre accompagnava Rogerio all'alloggio che gli era stato destinato, aveva spiegato che nel 1666 il compianto governatore Ogeron aveva fatto venire dalla Francia un centinaio di donne perché sposassero pirati e bucanieri e ripopolassero la Tortuga. Lei si era reclutata nei lupanari della Rue Saint-Denis, nelle carceri femminili e nelle taverne parigine. Il primo incontro tra i filibustieri e le future spose, le scheletto non vi aveva assistito ma lo si narrava ancora, era stato imbarazzante ed emozionante. Gli uomini timidissimi, le donne che guardavano altrove, poi ciascuno aveva fatto le proprie scelte ed erano nati ceppi familiari abbastanza solidi. Alcune mogli di pirati, discendenti da quelle prime, erano lì bianche di pelle, bionde di capelli, dotate di ombrellino e accudite da nugoli di serve. Avevano accompagnato i mariti ad assistere a un dialogo che si profilava vitale per le sorti di Tortuga. Rogerio scorse Le Bon abbracciato della moglie, una donna anziana e bene in carne, dagli occhi vivaci, lo raggiunse, salutò frettolosamente la signora e chiese: «Sei stato a bordo?» «No, però ho notizie, quelle che interessano a te.» Il nostro uomo strizzò le palpebre con fare complice. «Pepe Canseco è ancora sul Neptune, ormeggiato al largo, ma sta per scendere. Stanotte è stato per 2 turni di guardia con Calloa. Non credo che abbia potuto vedere la sua schiava, ma di certo sbarcherà con lei.» Era la notizia che Rogerio attendeva. Da quel momento, ogni pochi minuti, girò gli occhi al mare. «E tu, come hai dormito?» chiese Le Bon. «Oh, in una baracca piena di gente, di cui la metà russava forte. C'erano scorpioni dappertutto. Ne ho trovato uno perfino nel mio stivale, ma per fortuna me ne sono accorto in tempo.» «T'avevo detto di venire a casa nostra, almeno avresti evitato.» Le Bon si rigidì. «Silenzio, ecco i capi!» Il cavaliere De Grammont era entrato nella spianata, scortato dai più noti comandanti della filibusta: Le Sage, Adeston, Lorenzillo, Le Garde, Pierbotti e una decina d'altri. C'erano anche alcuni capitani inglesi di scalo alla Tortuga: Townsley, Peter Henry e Grogny, che era francese ma aveva base a Port Royal. De Grammont aveva indossato per l'occasione un mantello nero che aumentava la sua statura e con un tricorno dello stesso colore gli scurriva il viso, accentuandone la severità. Forse soffriva ancora per la gotta, però non lo dava a vedere. Il signor ex Kemeling alle sue spalle lo teneva d'occhio, pronto a intervenire con qualche pozione. Gli altri capi filibustieri, tutti armati di sciabola, esibivano vesti meno austere: gabbane di seta, giubbe ricamate, colletti enormi, brache filettati d'oro. Tuttavia lo sfarzo che ostentavano risultava inefficace di fronte alla tenuta cimiteriale di De Grammont. Era su di lui che si concentravano tutti gli sguardi. La Tortuga ha un nuovo capo degno dei tempi fulgidi dell'Olonnais, di Michel Basque e di Henry Morgan, prima che ci tradisse, commentò Le Bon mentre frugava nella tasca del soprabito alla ricerca della sua pipa. «Se dei chiusi ci vuole liberare e liquidare, di fronte a un uomo così avrà vita dura.» Dentro la spianata egli fermò la lettiga. Ne scese ansimante, come se avesse fatto lui la fatica di spostarsi. Si portò all'altro lato del veicolo e attese che uno schiavetto negro aprisse lo sportello, poi aiutò una giovane a scendere. Forse si trattava di sua figlia, sebbene non gli sopignasse affatto. La ragazza ondeggiava la testa sotto una parrucca assurda, complicato quanto una torta a più strati. La natura doveva averla fatta rossa di capelli, a giudicare dalla carnagione del viso, molto grazioso malgrado svariate imperfezioni. Padre e presunta figlia incedettero nella spianata protetta da vecchi cannoni. Subito dopo i soldati entrarono nel piazzale. Alcuni funzionari della compagnia francese delle Indie Occidentali, la vera padrona dell'isola, erano i responsabili dei 4 distretti in cui era divisa la Tortuga: Basse-Terre, in cui sorgeva Caiona, la Plantagenet du Milieu, Ringo e la Montagne, dove si elevava Fort Rock. Vestivano di nero come i notai, i medici e gli avvocati, ma non li si vedeva spesso in giro. Quando non erano nei loro uffici, abitavano nelle villette costruite al centro delle estesissime piantagioni di tabacco di cui erano padroni. Stavano liquidando ciò che restava della compagnia, è vero, ma in larga misura a proprio beneficio. Erano rispettatissimi e al loro passaggio persino i rozzi bucanieri si toglievano il berretto, ciò che non avrebbero mai fatto al cospetto del governatore. Da ultimo giunse il parroco della tortuga Gérard Laframboise, che sovrintendeva le due chiese di Caiuna, quella dell'Olonné e la cattedrale, assistito da un cappellano e da un diacono. Era un vecchietto ormai rassegnato su quello scoglio a non fare carriera nella gerarchia ecclesiastica, grande amico dell'Olonné e del governatore Ogeron, che lo avevano protetto tante volte dal protestante Morgan e dagli altri ugonotti, aveva trascorso la vita intera a pronunciare assoluzioni. Per le sue orecchie erano passate confessioni che avrebbero fatto rabbrividire chiunque. Gli schiavi maschi adulti stavano portando poltrone per gli uomini illustri presenti. Le schiave negrette aprivano gli ombrellini per ripararli dal sole. Appena tutti si furono sistemati, De Chiussy aprì il confronto. «Mi informano, cavaliere de Grammont, che avete intenzione di armare una spedizione per conquistare Campeggia». «È esatto, signor governatore», rispose il pirata inclinando il capo in segno di rispetto. «Certo, sapete cosa è accaduto dopo che col capitano de Grammont, che alla tortuga si viene al corrente dei patti stipulati dai re Luigi con mesi di ritardo. E circa Veracruz ebbi un regolare mandato dal signor de Poissy, il governatore di allora, eseguì il mio incarico, e se oggi la vostra casa è più ricca è anche in virtù di quel permesso». Vi fu un tentativo di applauso che de Grammont soffocò con un gesto. Il governatore si abbracciò al suo sedile e sporse il busto in fuori. «Cavaliere, ciò che è passato non conta e non vi sarà rimprovero. Però Luigi XIV vuole calma in questi mari, non desidera una spedizione su Campeggio. C'è attualmente pace tra Francia e Spagna?» «No, non credo, no». «E allora la filibusto sarà a Campeggio prima che gli spagnoli abbiano terminato di costruire la loro muraglia a difesa della città. Metterò assieme la più potente flotta che si sia mai vista nel Mar dei Caraibi. Ci saranno oro, merci, schiavi e schiave per tutti. Ogni spagnolo di Campeggio che proverà a resistere morirà, soffrendo come un dannato. Ci ammazzano lentamente, appesi alle loro gabbie o dilaniati, a colpi di tenaglia, sulle loro ruote. Ebbene, li aspettano tormenti molto peggiori». Scoppiò un'ovazione che si protrasse a lungo. Tanti agitarono i cappelli. Il signor De Chiussy tentò un'ultima resistenza. «Capitano, il re cui dobbiamo obbedienza non desidera più che in questi mari siano teatro delle crudeltà commesse dai pirati. Mi ha affidato 3 fregate per riportare l'ordine, con mandato di sparare se necessario. Vi conviene risparmiare Campeggio». «Ma che cosa ne sa il nostro amato re Luigi del fatto che vogliamo prendere Campeggio?» replicò de Grammont con una smorfia sardonica. «Fino a ieri non lo sapevate nemmeno voi. La vostra indole buona vi acceca, signor governatore. Ebbene, voglio rassicurarvi. Agli spagnoli che si arrenderanno non sarà torto un capello. Conquisteremo la città prima che se lo aspettino e, quando ancora cercheranno di capire cosa è successo, l'avremo spogliata di tutto». De Chiussy si fece paonazzo. «Capitano, vi esorto ad abbandonare i vostri propositi. Faccio di più, vi prometto una buona sistemazione alla corte di Francia. Anche gli uomini che avete con voi otterranno impieghi ben retribuiti. Sapete che il re si compiace di premiare ogni suo suddito fedele». «Ah, lo so», rispose de Grammont con un sorriso e un inchino. Si alzò in piedi. «Mi avete convinto, governatore. Obbedirò alla volontà degli equipaggi se coincide con la vostra». E fece girare lo sguardo freddo su quanti lo attorniavano. «Ragazzi, volete rinunciare all'impresa che ho in mente? Pensateci, in Francia potreste diventare stallieri onorati, servitori, guardiacaccia, persino scrivani. Il signor De Chiussy si impegna a garantirvi tutto ciò, che ne dite?» Si levò un no collettivo quasi assordante, condito da una quantità di risa e di imprecazioni divertite. E de Grammont tornò a inchinarsi al governatore. «Mi dispiace, eccellenza, i cavalieri fratelli della costa si sono pronunciati. Purtroppo la decisione non va nel senso da voi voluto». «Badate le mie fregate», de Grammont interruppe il nobiluomo. «Quanti navi avete, capitano de Graff?» «Un brigantino e 27 cannoni», rispose Lorenzillo. «E voi, Adelszon?» «Anche un brigantino e 20 cannoni, Lesage, 2 sloop per un totale di 12 cannoni, Pierbot, una galetta, un galeone catturato e Nuestra Signora de Regla con 34 pezzi da fuoco». La conta proseguì finché De Grammont decise di interromperla. Le navi alla fonda nel porto di Caione e negli altri porti di Tortuga toccavano la ventina, tre fregate. Non avrebbero mai potuto sopraffarle. A quel punto il cavaliere smise di considerare il governatore, si rivolse ai capitani, alle ciurme e ai bucanieri. «Fratelli della costa, amici miei, tra un mese esatto appuntamento alla Isla della Vaca, come ai vecchi tempi, e poi si fa rotta su Campeche!» Seguì un'ovazione. De Chiussy raggiunse la sua lettiga, tornato da cortigiani e funzionari, ma sembrava ingobbito. Ecco, oggi finisce qui la diretta d'azione. Ricordo il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo, che è il 21 febbraio, con controinformazione e musica, mentre per la lettura di Tortuga si parla per il lunedì 24 febbraio. Ricordo gli indirizzi utili per radiazione @radistici.org per la mail, per chiunque vuole mandare qualsiasi tipo di scritto, comunicati, mail, giornali online o quanto si può pubblicare sul sito di radiazione. Invece per il sito è radiazione.org, dove potete controllare la controinformazione aggiornata quotidianamente. La radio, chi l'ascolta sa già come fare, altrimenti chi la sta ascoltando per la prima volta può cliccare sul banner il lunedì e venerdì dalle 17 in poi e ascoltare la diretta d'azione, altrimenti c'è il lettore sulla sidebar che vi permette di tenere aperta una sola pagina, quella del sito e quella della radio, e ascoltare la diretta d'azione. Ora vi lascio con un brano di Byton Topaz e l'appuntamento è a venerdì prossimo. frequenze e azioni in diretta. Radio azione, lettura, informazioni, musica. Frequenze